Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, Sant'Ambrogio, bene bene le borse, più 0,80% Milano, meglio però anche oggi le borse, le altre borse europee, soprattutto Parigi più 1,70, Francoforte invece come Milano più 0,70, Londra più 0,90, l'America guadagna mezzo punto percentuale, l'euro stabile 1,3317. Tutto sommato dall'Ecofin, ossia il vertice dei ministri economico-finanziari, che oggi praticamente seguiva l'Eurogruppo, ossia il vertice dei ministri economico-finanziari dell'area euro di ieri sera, ha dato qualche segnale. Ancora però si discute dei cosiddetti Eurobond, ossia della possibilità che esista un'agenzia di debito europea che emetta, che possa emettere obbligazioni, un po' come fanno i singoli stati, insomma, emettere obbligazioni per appunto farsi pagare, farsi finanziare questo debito. Molti osservatori hanno fatto notare, a partire dal ministro Tremonti, i vantaggi di questa agenzia, perché chiaramente il rischio del singolo paese verrebbe spalmato su tutti i paesi europei, diventerebbe anche molto difficile attaccare un debito europeo, un conto attaccare il debito dell'Irlanda, il debito della Grecia, il debito eventualmente del Portogallo, forse la Spagna, c'è chi ipotizza l'Italia, altra cosa è attaccare il debito di un continente come l'Europa, e a livello speculativo chiaramente. È chiaro che la Germania in questo momento nicchia, anche se con qualche timida apertura, è il paese più virtuoso, è il paese che ha il debito più sicuro, quello con il voto più alto, con le obbligazioni che devono pagare i più bassi rendimenti per farsi finanziare. E insomma, è anche immaginabile, comprensibile la titubanza per essere buoni tedesca, ma qui stiamo ragionando del futuro dell'Europa. Chiaro che se si vuole immaginare, e adesso ne parleremo, un'agenzia di debito europea che emetta lei obbligazioni europee, gli Eurobond, occorre immaginare anche politiche fiscali e quindi anche sul controllo dei conti pubblici comuni. Non è più possibile che ogni Stato faccia le sue finanziarie o abbia i suoi rientri con i suoi tempi. Altro tema di cui tratteremo, le materie prime. Vedo già molti messaggi. Sì, tutte le materie prime sono a record. L'oro, ma non solo, l'argento, il rame, il platino, lo zinco, l'alluminio, e ne parleremo durante il programma. Mentre sulla benzina vedo ancora molti messaggi dopo l'intervista ieri al mitico ormai presidente dell'Unione Petrolifera Italiana De Vita, che dice no, ma è tutto uguale, noi abbiamo fatto notare che la benzina quando era $104 il barile, il petrolio costava meno di adesso che il petrolio è a $90 il barile, e l'euro non è che fosse, non è che sia così debole, anzi non se ne viene fuori. Poco fa il governo ha detto beh, potremmo inserire nel decreto mille proroghe quel bonus fiscale per i benzinai che era parte dell'accordo, ricorderete, quando il furono le tensioni e la minaccia di sciopero delle pompe di benzina. Ne parleremo con il sottosegretario che ha la delega su queste materie, lo sviluppo economico, Stefano Saglia, nella seconda ora del programma. Non mi resta che dare una cifra, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora partiamo dai record, no, vedo alcuni messaggi che fanno anche ridere. Comunque, dai mercati non azionari, l'oro ha fatto il nuovo record, come ormai era immaginabile, $1,428 l'oncia, il nuovo record storico. Il rame è record a Londra, $8,967 a tonnellata, mai così alto nella sua storia il rame. L'argento a livello, non è record storico, ma è a livello più alto degli ultimi 30 anni, a $30,33 l'oncia. In fortissimo aumento anche i prezzi di zinco e alluminio. E il petrolio apre in rialzo a 90,6 dollari a New York. Non si fermano i rialzi della benzina, la verde a 1,455 euro. IP, per esempio, Total Erg. L'Enologo invece sono a 1,384 euro. Quindi se volete risparmiare e se le trovate, usate le benzine no logo, come si chiamano, quelle non di marchi. Però nel diesel si va dall'euro 321 al litro della Esso all'euro 334 al litro della Tamoil. L'Enologo a 1,257 euro. Allora, una nota interessante sulle borse riguarda l'indice europeo Dow Jones Stock 600, che prende i 600 primi titoli d'Europa. Perché dico che è interessante? Perché è ai massimi del 2010 e tra l'altro a Francoforte l'indice DAX ha toccato i 76.000 punti, ossia ai massimi dall'estate del 2008, e non è un caso che la Germania sia il paese che va meglio in questo momento in Europa. Una buona notizia, anche se di scarsa incidenza sui mercati, riguarda l'Islanda. Lo ricorderete, rischiò la bancarotta. Invece l'Islanda, anzi, andò praticamente in bancarotta, fu comprato il suo debito dall'Europa, da un aiuto europeo. L'economia islandese nel terzo trimestre è uscita dalla recessione per la prima volta dallo scoppio della crisi finanziaria. E adesso Eric Cantona. Non stiamo impazziti, non stiamo parlando di calcio, ma alcuni di voi già sanno di cosa sto parlando perché ci hanno scritto in questi giorni. Ah, non ho dato i titoli, va bene, allora diamo i titoli, avete ragione, e poi Cantona. Buzzi Unice è molto forte, più 4,3, Fiat più 3,20, Exor più 3,12, Italcementi più 2,90 come Bulgari, il 2,2 Prismian, l'1,80 Ansaldo, l'1,70 Generali e Luxottica, l'1,60 Eni, l'1,40 Intesa San Paolo, l'1,15 Enel e l'1% Snam Rete Gas e anche Unipol, quanto a rialzi. Chi perde? Mediaset meno 1,80, Monte dei Paschi meno 1, Atlantia meno 0,80, Finmeccanica meno 0,70, Telecom meno 0,60%. E allora, dicevo, è arrivato il giorno della rivoluzione, se a dirlo è un francese dovremmo forse crederci. Comunque lui è l'ex stella del calcio francese, Eric Cantona, che ha lanciato la sua personale sfida al sistema bancario. La rivoluzione si fa attraverso le banche, ha detto l'ex attaccante, che alcuni ricorderanno giocava nel Manchester United, e già lo disse a ottobre scorso: se 20 milioni di risparmiatori ritirassero contemporaneamente i loro soldi dai conti correnti, il sistema crollerebbe su se stesso. E Cantona, visto che è di origine italiana, che adesso è anche un attore di un certo successo, aveva dato appuntamento a tutti i suoi fedeli, adepti, chi lo segue, insomma, il 7 dicembre, non un numero a caso, perché il 7 era il numero che lui indossava come calciatore, per ritirare tutti i soldi depositati nei conti correnti bancari. Migliaia le adesioni raccolte nella rete, nel web, e allora sentiamo perché ritiene efficace Cantona questa misura, e poi vediamo anche qualche dato. Non credo si possa essere completamente contenti vedendo la miseria intorno a noi, a meno che non si viva dentro a un guscio. Ma esiste una possibilità, c'è qualcosa che si può fare. Al giorno d'oggi scendere in strada cosa vuol dire? Manifestare per strada cosa significa? Voglio dire, non ci mettiamo a prendere armi, a uccidere la gente. La rivoluzione oggi è molto semplice da fare. In cosa consiste il sistema? Il sistema gira intorno alle banche. Il sistema è fondato sul potere delle banche e quindi può essere distrutto partendo proprio dalle banche. Se i milioni di persone che sono in strada con i loro cartelloni andassero in banca a ritirare il loro denaro, le banche crollerebbero. Ecco dov'è la vera minaccia, la vera rivoluzione. Nelle banche è possibile la vera rivoluzione. Non è complicato. Invece di andare in strada e fare chilometri con la propria auto, si va presso la propria banca e si ritira il denaro. E se tantissime persone ritirassero il proprio denaro, il sistema crollerebbe. Nessuna arma, niente sangue, niente del genere. Non è difficile. Allora, vedremo che tipo di seguito avrà l'iniziativa dell'ex calciatore. Tra l'altro, oggi si è saputo che 750.000 euro di Eric Cantona depositati nella banca d'affari Leonardo, con sede a Milano, sono stati trasferiti in un conto, sempre a nome di Cantona, al Crédit Agricole in Francia. Le banche sono preoccupate, però, addirittura se ne è parlato, ed ecco perché abbiamo cambiato la base, adesso ci occupiamo del vertice, ecco, se ne è parlato addirittura nel vertice dei ministri economico-finanziari a Bruxelles. Ha detto Jean-Claude Juncker, che è il presidente dell'Eurogruppo, è un'operazione irresponsabile, si rischia di scherzare sulla pelle dei cittadini più sprovveduti, inducendoli in errore. Allora, l'operazione è sicuramente da condannare, nel senso che non si può puntare al collasso del sistema bancario, non scherziamo. Però, un po' come scrivono alcuni ascoltatori sullo sciopero che bisognerebbe fare contro le pompe di benzina per i rincari nel ponte, però devono capire anche gli eurogovernanti, gli euroburocrati, i grandi vertici, i grandi manager, la frustrazione che c'è in molti cittadini consumatori nel vedere i prezzi della benzina aumentare sempre sotto i ponti e, o nel caso bancario, avere mille difficoltà ai trasferimenti di conto corrente. Ancora adesso non mi fate tornare sul tema, ma insomma le commissioni di massimo scoperto eliminate da Bersani sono parzialmente rientrate. Cioè, attenzione, è sempre meglio il dialogo della rivolta, ed è sempre meglio non portare i consumatori e la gente alla rivolta. Tutti preoccupati, in Francia e in Belgio, ma Michel Vermarche ha detto che la Federazione Belga del settore finanziario, lui è responsabile, ha detto che questa azione può destabilizzare il già fragile sistema finanziario. È sceso in campo anche il ministro del bilancio francese, François Baroin, ha detto che l'appello di Cantona è grottesco e poco serio. E poi la Tremonti, diciamo, di Francia, Christine Lagarde, ha detto a ciascuno il suo mestiere. C'è chi gioca a calcio benissimo, io non mi azzarderei mai, ognuno dovrebbe parlare a seconda delle proprie competenze. Sì, faccio notare alla Lagarde che tutti noi, però, magari non giochiamo a calcio tutti, ma tutti abbiamo un conto corrente in banca, quindi siamo tutti legittimati a chiedere anche al mondo bancario. Vabbè, passiamo al vertice di Bruxelles. Allora ringrazio per averci aggiunto in collegamento, da un lato, il corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Coro, sulle 24 ore, Antonio Poglio Salimbeni. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. E dall'altra l'economista, già nostro ospite altre volte, il professor Roberto Perotti, che tra l'altro è editorialista anche del Sole 24 Ore e insegna macroeconomia all'Università Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Lei ha scritto un bellissimo articolo sul Sole oggi, le chiederei solo di alzare la voce che perdiamo un po' di qualità dal suo telefono, che ci è piaciuto molto perché in linea con questo programma esemplifica molto. Lei ha dato un nome, ha immaginato una famiglia europea in cui, non so, c'è Klaus, che è uno dei figli, che è tedesco, poi c'è Dimitrios, che è greco, Patrick, che è irlandese, e va avanti con questo gioco dei nomi di battesimo, e poi i fratelli Joao e Pedro, e poi c'è anche il fratello Francesco. Chiaramente uno di questi è uno dei paesi europei, alcuni fratelli sono più bravi, virtuosi, altri no. Però, prima di tutto chiederei la cronaca, il punto, a Antonio Poglio Salimbeni. Eurobond si ammorbidisce la linea tedesca sulle obbligazioni europee o no? Ma no, finora non ci sono spiragli, a parte quella possibilità di cui ha parlato ieri sul Financial Times il ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, possibilità per dare tempo anche al Parlamento tedesco di riflettere sulla diminuzione, sull'indebolimento della sovranità nazionale sulle politiche di bilancio. Vedremo se questo sarà un'apertura, ma sull'Eurobond la posizione tedesca resta incrollabilmente contraria, perché la Germania non vuole, teme di farsi carico del debito altrui. In ogni caso il vincolo fondamentale per Berlino resta il rispetto rigoroso del patto di stabilità, e quindi andare celermente, tutti i paesi devono andare celermente verso il 3% di deficit PIL e verso un rapporto fra debito e prodotto lordo al 60%. E invece la decisione è stata poi quella di ieri sera a tarda ora e confermata poi dall'Ecofin oggi, quella di non aprire il vaso di Pandora della dotazione delle garanzie sulle quali la facility, il meccanismo di intervento finanziario, di sostegno finanziario ai paesi in difficoltà sui mercati, l'aumento non ci sarà per ora. Non è una notizia che comunque ha allarmato più di tanto i mercati, mi pare. No, anzi, i mercati vanno bene, più 0,90 Milano, più 1,70 Parigi, più 0,70 Francoforte. Antonio, resta con noi perché poi vorrei capire invece che ne è in tema di banche, un po' di umori che tu hai raccolto sul rischio domino, cioè il fatto che dall'Irlanda si possa passare al Portogallo. Noi sappiamo che, come con la Grecia, è tutto uno stop and go, no? Si assalta un debito, nel caso greco, poi ci si ferma un po', poi si è assaltato quello irlandese, poi ci si ferma, non vorremmo che adesso fosse la volta del Portogallo. Però prima vorrei sentire il professor Perotti. Dicevo, lei ha immaginato una famiglia di fratelli, tanti devo dire, no? Un po' come quelle di una volta nell'Italia contadina, ognuno dei quali rappresenta un paese europeo. E lei dice, c'è Klaus che è virtuoso, è l'unico virtuoso, ha risparmi, nessun debito. Ci sono invece il fratello Dimitrios, quello greco, che si è magnato tutto, ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, eppure Patrick, quello irlandese, non è che ha scherzato. E poi c'è sullo sfondo anche l'ipotesi di poter scoprire che anche il fratello Joao, quello portoghese, e Pedro, quello spagnolo, si sono indebitati, per non parlare del rischio che Francesco, il fratello italiano, anche lui, che pure lavora adesso, ha tanto debito sulle spalle, possano reggere il colpo. Che soluzioni intravede, professor Perotti, e ha ragione la Germania a essere così prudente? La Germania ha ragionissimo. Tutti gli schemi di aiuti ai paesi virtualmente in bancarotta che sono stati proposti sono di fatto un modo per trasferire risorse dal contribuente tedesco a uno di questi paesi. Dal fratello virtuoso al fratello spendaccione, la cicala, diciamo. Esatto. L'unico modo per salvare una paese in bancarotta per definizione è quello di trasferire di risorse. Il paese che può trasferire risorse è la Germania, forse la Francia. Quindi dal punto di vista della Germania è perfettamente legittimo andarci pure, anche per tutti gli altri paesi per loro è facilissimo chiedere di aumentare i vari fondi di aiuto, di mettere Eurobond eccetera, per loro cosa costa? È la Germania che deve pagare. Ecco, però visto che l'Europa non è fatta di solo Germania, cioè non è la Germania che ha inglobato l'Europa, ma è l'Europa che ha inglobato la Germania, fino a prova contraria. Professor Perotti, è ovvio che l'idea di un Eurobond caldeggiata da vari esponenti, tra cui Mario Monti, Giulio Tremonti, e anche alcuni, anche Juncker, no? Non è contrario, è un'idea in cui tu vai a spalmare il rischio di assalto speculativo su tutti i paesi europei. Voglio dire, attaccare l'Irlanda e la Grecia è facile, anche il Portogallo, forse anche la Spagna. Ma attaccare l'intero debito europeo, scommettere che non terrà il debito europeo, è impossibile praticamente. Cioè diventeremo anche noi come l'America, che può imbarcare debito e deficit, ma nessuno sogna o si sogna di attaccare in maniera speculativa il debito europeo e americano. Sì, ma la Germania in questo momento può prendere a prestito al 3% a lunga. Se si mette insieme ad altri paesi che possono prendere a prestito al 9%, cosa pensa che succederà al tasso a cui può prendere a prestito la Germania? Però allora l'alternativa che lei propone qual è? Cioè di far fallire eventualmente, se ci sarà un prossimo giro e poniamo il Portogallo finirà sotto attacco, non diamo aiuti, oppure facciamo lo solito fondo di stabilizzazione europeo e così si continua, per poi passeremo alla Spagna? Chiedo. Secondo me il problema dell'Europa di questi anni è che sia i paesi sovrani sia le banche hanno preso rischi eccessivi, si sono indebitati eccessivamente sapendo che prima o poi qualcuno li avrebbe salvati. Prima o poi bisogna avere a che fare con questo problema, non si può ignorarlo. Quindi quello che io credo che debba succedere, siccome non si può salvare tutti, il contribuente tedesco si rifiuterà di salvare la Spagna, al massimo forse arriverà a salvare il Portogallo, ma si rifiuterà di salvare la Spagna. Quello che secondo me deve succedere prima o poi è che si accetti che un paese sovrano possa fare un fallimento parziale, perché qui non stiamo parlando di un fallimento totale, stiamo parlando di un default parziale sul debito. Se si ha paura per gli effetti sistemici sui mercati finanziari, sulle banche, salviamo tutte le banche, tranne una o due ogni volta, e così si spera che si insegni una lezione ai paesi e alle banche. Quindi lei è per un fallimento pilotato a questo punto? Io non so, perché quando ci fu l'ipotesi di dire vabbè, bisogna darle un messaggio al mercato, io l'ultima che ricordo è quella di Lehman Brothers, fu un errore enorme, perché non si diede una lezione al mercato, si diede un segnale di totale insicurezza e incertezza che costò centinaia di miliardi, professor Perotti. L'idea anche lì era, beh, non è che lo Stato americano può salvare le banche, se hanno fatto errori, si sono sovraesposte, sono sul mercato, devono poter saltare. Sì, ma lì si arrivò a un passo dal baratro. Non sono d'accordo, secondo me lo spettro di Lehman Brothers è stato molto esagerato in Europa. In tutto il mondo si è sopravvissuto a Lehman Brothers e sono convinto che molte persone, sia nell'ambiente finanziario sia nei governi, anche se non lo ammetteranno mai pubblicamente, siano convinte che Lehman Brothers ha insegnato una lezione. Secondo, non era solo Lehman Brothers, ma era anche AIG, soprattutto AIG, che aveva assicurato praticamente metà del mondo finanziario mondiale. In Europa questo non succede. Terzo, secondo me le banche sono molto meno esposte di quanto noi crediamo al rischio, al debito sovrano. Alcune falliranno se ci fosse una default parziale, ma l'Europa può sopravvivere al fallimento di qualche banca. Non dico lasciarle fallire tutte, lasciamole fallire due ogni volta che fallisce un paese sovrano e in qualche modo il sistema finanziario imparerà la lezione. Cioè lei dice, non so, poniamo caso dell'Irlanda, c'erano due banche, di cui una era l'Anglo-Irish Bank, fatele fallire, l'Irlanda dichiara, la pilotiamo in un fallimento, quindi ristrutturiamo il debito irlandese, quindi le obbligazioni irlandese vanno rimodulate, un po' come è avvenuto per i risparmiatori Cirio, Parmalat, qui da noi, e secondo lei questo non comprometterebbe in via molto seria l'euro stesso? Non credo, però io dicevo non lasciare fallire solo le banche irlandesi, quelle sono già fallite praticamente, sì, senza l'aiuto. Il problema casomai sulle banche francesi, inglesi e tedesche, è lì che si concentrano i timori, per quale motivo per cui la Germania è intervenuta. Credo che se non ci fossero problemi con le banche francesi e tedesche, né Francia né Germania si sarebbero date molto da fare per salvare l'Irlanda. Lei dice per l'esposizione delle banche tedesche e francesi verso l'Irlanda? Sì. Io credo che molte delle banche, quasi tutte le banche francesi e tedesche potrebbero sopravvivere a un fallimento parziale, a un default parziale dell'Irlanda. Sono quasi certo che le banche inglesi possono sopravvivere, erano le più esposte all'Irlanda. Le altre, se proprio siamo convinti che a un certo punto si vede che non possono sopravvivere, salviamone uno o due. E lei dice, si potrebbe pilotare questa cosa? Sì, mi sembra un tentativo un po' rischioso, sarà che insomma, noi siamo più prudenti, però lei teme altrimenti che capiti che cosa? Però è rischioso, però quello che sappiamo è che se si arriva al Portogallo, se tutto si ferma al Portogallo, che l'Europa può sopravvivere, quando arriva la Spagna, la Germania non si mette a salvare la Spagna, anche perché se arriva la Spagna arriva anche l'Italia, non è che si ferma la Spagna. E la Germania non vuole e non può salvare la Spagna e l'Italia, quindi tanto vale insegnare una lezione ai mercati prima. Sì, dice fermiamo con piuttosto, diciamo, io uso un termine un po' brusco, come certe cancrene, amputiamo un arto piuttosto che mandare a gambe all'aria l'intero corpo, capito bene? Sì, se l'amputazione di un arto non è mai una scelta facile. Antonio Poglio Salimbeni, poi ti chiedo della cronaca, ma un commento lo vorrei su questo. Ma diciamo, oggi tutto il quadro degli interventi governativi dell'Eurozona, BCE, esclude lo scenario del default sia degli stati sia delle banche. Per quanto riguarda le banche, non sottovaluterei il fatto che adesso vengono le banche, per esempio irlandesi, vengono sostenute con liquidità grazie al prestito e va bene. Questa è la prima fase, la seconda fase sarà una mazzata presumibilmente per le banche irlandesi, nel senso che qua a Bruxelles dovranno venire a concordare dei piani di ristrutturazione pesante, sulla quale ci sarà, contrariamente alle inchieste classiche antitrust in materia di aiuti di Stato alle banche, ci sarà l'occhio stravigile dell'Eurogruppo, in particolare della Germania, dell'Austria, dei paesi scandinavi, eccetera, soprattutto anche naturalmente di britannici, danesi e svedesi che partecipano, pur non essendo un'unione monetaria, al pacchetto a favore dell'Irlanda. E lì si discuterà, si discuteranno cessioni, separazioni, vendite, cioè che cosa risulterà da questo processo di taglia e cuci, anzi più taglia che cuci, non lo sappiamo. Cioè quale sarà la dimensione del sistema bancario irlandese. Allora, dopo il metro pubblicità vorrei continuare su questo tema, perché oggi il commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn ha detto che vi saranno nuovi stress test, nuovi test sulla tenuta del sistema bancario. Intanto grazie al professor Perotti, che come sempre ha delle idee molto nette, molto chiare, possono essere, vedo molti messaggi, condivisibili o meno, ma sicuramente è un punto, è il punto del rigore, lo dico anche a chi scrive, il punto del fratello che non vuole più aiutare i fratelli spendaccioni che hanno dimostrato, questo viene anche nelle famiglie, perché poi ognuno si faccia l'esame di coscienza quando parla, in qualche modo bloccare, se ho ben capito, salvare i beni, il patrimonio, l'eredità di famiglia prima che sia troppo tardi, e questa eredità si chiama Casa Comune Europea. Grazie Roberto Perotti, meteo, pubblicità e poi di nuovo sull'Europa e poi la borsa che ha chiuso bene in tutta Europa. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo che non è una provocazione, diciamo, l'analisi del professor Perotti ha spaccato in due gli ascoltatori, ed era immaginabile. Cioè Perotti, lo dico perché si fosse messo in collegamento, dice attenzione, meglio far fallire in maniera guidata, pilotata parzialmente uno di questi paesi piuttosto che si passi poi alla Spagna, e a quel punto la Germania, il contribuente tedesco non metterebbe un marco, un euro per salvare la Spagna, non ce la può fare. Meglio allora dare una lezione, far fallire qualche banca. Attenzione, le banche non erano tanto le banche greche o irlandesi, ma lui pensava alle banche tedesche o francesi, che molto si sono esposte per decine e decine di miliardi nei confronti di Irlanda e Grecia ed eventualmente anche Portogallo, che fa saltare l'intero piatto. Molti di voi dicono, ma insomma, si rende conto di quello che dice? Avremmo giorni e giorni di turbolenza sui mercati, a dir poco, con crolli di borsa, con la fuga degli investitori. Sono nessuno la bacchetta magica. L'alternativa di Eurobond a me sembra quella più percorribile, ma è chiaro che se io sono un fratello pieno di debiti, e lo siamo perché siamo italiani, per quanto ci siamo comportati bene in questi ultimi anni, e tu sei fratello virtuoso che ha risparmiato, che non ha debiti, che ha molti contanti, devo convincerti io, non è che posso aspettarmi in automatico che i tedeschi si mettano a, diciamo, distribuire il loro debito assieme ai nostri e a creare un'agenzia unica europea del debito in cui confluiscono tutti i debiti di tutta Europa. Alcuni dicono invece, grande Perotti, sa che il medico pietoso fa morire il paziente, meglio amputare la cancrena e poi salvare il resto del corpo. Lo so. Allora, Antonio Poglio Serimbeni, di banche oggi si è discusso comunque a Bruxelles. Ascoltiamo Olli Rehn, commissario europeo agli affari economici e monetari. Our systemic response to the systemic continuando il nostro lavoro per costruire una risposta alla crisi, posso dire che uno degli elementi fondamentali sarà la preparazione di una nuova serie di più rigorosi e anche più ampi stress test che inizieranno il febbraio dell'anno venturo. I prossimi stress test saranno basati sulla nuova architettura finanziaria. La metodologia è ancora in corso di discussione, ma sicuramente abbiamo imparato la lezione dagli stress test che sono stati condotti a inizio anno. Senza dubbio la componente della liquidità dovrà essere inclusa nella prossima serie di stress test sulle banche. Ciò di cui abbiamo bisogno è di una totale trasparenza nel portare avanti gli stress test. Attualmente sono in preparazione e avremo a breve maggiori dettagli sulla metodologia comune e forniremo tutte le informazioni una volta concluso il lavoro. Allora, vedo che poi l'esempio fatto da Perotti dei fratelli con diversi nomi, un po' come le barzellette, no? C'era un tedesco, un italiano, un francese, è piaciuto molto. Alcuni scrivono addirittura: noi abbiamo un fratello che potrebbe benissimo chiamarsi Grecia o Irlanda, e mio padre, insieme agli altri noi fratelli, insomma, tutti insieme abbiamo deciso di non aiutarlo più perché abbiamo visto che lui su questa cosa ci ha marciato. Ha ragione Perotti. Antonio Poglio Sembeni, il test alle banche e a questo punto qual è il prossimo passaggio europeo? Perché mi sembra che gli schieramenti, come tu ricordavi, restino assolutamente gli stessi, ma senza avvicinamenti. Dunque, sugli stress delle banche il quadro appunto non è chiaro, ma ciò che è evidente è che lo stress test fatto nell'estate scorsa, concluso nell'estate scorsa, è stato giustamente criticato e quindi bisogna correre ai ripari. Con un gioco di parole si può dire che la nuova autorità di supervisione europea delle banche sarà testata appunto sullo stress test per il sistema bancario che deve vigilare. Questo è un pilastro sul quale l'Ecofin in realtà, i governi in realtà puntano molto, perché lentamente si sta componendo il quadro della futura regolazione. Anche l'Eurobond non è per l'oggi. Mi pare di capire che l'Eurobond andrà di pari passo, se dovesse evolvere come proposta politica, almeno da metà 2013, cioè sarà l'erede, questa è l'idea di Tremonti e di Juncker, il presidente dell'Eurogruppo, l'idea è di arrivare a quel punto con un sistema veramente un sistema integrato e una soluzione europea. Il problema è che adesso sembra che non ci siano proprio gli spiragli politici perché un'idea del genere passi. Allora cosa resta? Resta lo stress test, la vigilanza che diventerà classica a livello europeo, e resta la BCE. Chi tiene il pallino oggi in mano, nonostante tutto, del giorno per giorno, è la BCE con le iniezioni di liquidità. È proprio per sfuggire a questo imperativo, a questo obbligo tecnico politico che la BCE ha caldeggiato l'intervento per la Grecia, l'aiuto per l'Irlanda e probabilmente a quanto si è detto anche nei giorni scorsi anche un intervento per il Portogallo, se del caso, estrema razio. Perché la politica monetaria, perché la Banca Centrale Europea, che tiene in mano che ha come strumento soltanto la politica monetaria, teme di essere a questo punto soffocata dallo stesso ruolo di difensore di ultima istanza della stabilità. Questo è il punto vero. Eh sì, grazie. Poi su questo si giocherà una partita molto molto delicata nel 2011 a questo punto, speriamo che non ci siano sorprese prima, molto delicata. Che tutta ancora da vedere quanto a carte. Grazie Antonio Poglio Sembeni, il traffico e poi la borsa. Allora, la borsa, come sempre, con i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Devo dire, le indecisioni o comunque le spaccature che permangono in Europa non hanno avuto una ripercussione sui mercati, anzi, Parigi più 1,6, Francoforte più 0,7, Londra pure, Milano più 0,90%, molto bene Boots Unicem più 4,6, Fiat più 3,5, come Exor più 3,4, Italcementi più 3,1, Bulgari più 2,7, Prismian più 2, Luxottica più 1,80, come Ansaldo 1,5% Generali e Intesa San Paolo 1,3, Eni di rialzo e Pirelli, ma anche Enel più 1,2, Unipol, Geox più 1%, Tenaris più 0,90. Fronte opposto, media 7-1,4, Motori Paschi meno 0,80, come il Banco Popolare meno 0,60, e UbiBanca e Finmeccanica meno 0,50, Atlantia e Telecom Italia. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, Exor e Fiat, torna il ministero. In realtà qui c'è una notizia, c'è l'accordo in Brasile e dati di immatricolazione auto in Brasile soprattutto. Sì, infatti i titoli hanno beneficiato appunto da una parte dei dati sulle immatricolazioni in Brasile che sono risultati superiori alle attese. Le vendite di auto infatti sono cresciute al 29% con un incremento per Fiat del 13% circa, una quota di mercato salita al 22,6%. Dall'altra parte inoltre le azioni, quindi sia Fiat sia l'azionista di riferimento Exor, hanno beneficiato di questo accordo siglato in Brasile dalla holding della famiglia Agnelli, che ha acquisito con un consorzio di investitori internazionali il 18% della più grande banca di investimento brasiliana, quindi il mercato ha apprezzato entrambe le notizie che hanno riguardato la Galassia Agnelli. Allora, no, vedo un messaggio che mi fa sorridere, citando l'esempio di Perotti, del fratello Klaus, Pedro, José, Patrick, i vari paesi europei, e fratello Francesco, che sarebbe l'Italia. Ho detto, beh, l'Italia potrebbe avere due fratelli, Umberto di Milano e Carmine al sud, e lo so. Dal punto di vista della solidità siamo d'accordo, ma il paese è uno e tale deve restare. Livia Zancanelli, oggi non scherzerò con te se non dicono che ti faccio il filo e non è vero, e invece andiamo serissimi su Mediaset, che è il titolo che perde di più, -1,5%. Sì, allora possiamo dire che è continuata la pressione sul titolo, che infatti dalla chiusura del 9 novembre, che è stato il giorno di pubblicazione dei conti, ha perso praticamente il 18%. Allora, secondo gli operatori, le azioni continueranno a essere sotto pressione anche nelle prossime settimane e il prossimo anno, a causa soprattutto di due fattori, quindi incertezza politica e andamento della TV a pagamento. I timori riguardano soprattutto il rischio che la Pay TV non riesca a raggiungere il pareggio nel 2011 a causa della concorrenza di Sky Italia, e dall'altra parte i rischi riguardano anche il calo dell'audience e un rallentamento di conseguenza della crescita dei ricavi da raccolta pubblicitaria. Quindi comunque le pressioni sul titolo, secondo gli analisti, quindi dovrebbero proseguire anche nelle prossime settimane. Sì, calo dell'audience, ma non in Lombardia, visto che molti di noi ancora non riescono a vedere la Rai col passaggio digitale. Apro una brevissima parentesi, se voglio facciamo anche un approfondimento in Focus Economia. Si vedono tutte le altre reti, tra cui Mediaset, ma non la Rai. Intervenite. Allora, andiamo avanti, non ridere, sennò gli ascoltatori pensano che ci sia qualcosa di extra professionale. Zancanelli, seria. Monte dei Paschi -0,80, il Banco Popolare -0,80, UbiBanca -0,70. Sì, allora, in realtà le azioni delle banche si sono praticamente indebolite verso il finale di seduta, con il settore che quindi ha chiuso con un leggero rialzo, quindi poco sopra la parità. Probabilmente tornano i timori anche in funzione dei prossimi stress test di febbraio sul settore, che in realtà oggi comunque aveva realizzato fino a metà pomeriggio una performance positiva. Ancora, veniamo invece a chi ha guadagnato, oltre ai buzzi unici, metal cementi, il settore costruzione è spesso anticiclico. Fiat abbiamo detto, Bulgari +2,70, Prismian +2%, Luxottica abbiamo detto +1,80. Allora, bene Generali, che era un po' che non si muoveva, +1,5%, e bene mi è sembrato di vedere anche Edison, che però forse è un po' ritracciato perché non la trovo più. Prego. Sì, allora Generali ha chiuso appunto in rialzo dell'1,5%. Circa. Allora eccola qua, +5,90, scusami Edison. Ok, quindi Generali ha beneficiato del buon andamento del comparto assicurativo, che in Europa ha guadagnato l'1% circa. Inoltre gli operatori hanno spiegato che il titolo ha sottoperformato il settore sia durante l'ultimo anno sia durante il mese scorso, quando le azioni hanno ceduto il 14% circa. Per questo motivo appunto, secondo gli operatori, le azioni hanno un maggior appeal rispetto agli altri concorrenti. Per quanto riguarda Edison, il mercato ragiona sulle possibili mosse di E2F, che è l'azionista di riferimento di Edison insieme all'italiana A2A, dopo che ieri appunto il gruppo francese ha annunciato la vendita del 45% di MBV. Secondo gli operatori è difficile al momento prevedere se la cessione di MBV sia una mossa propedeutica o un aumento della partecipazione in Edison, ma comunque è chiaro che E2F considera l'Italia un mercato strategico, un mercato comunque importante su cui sarà possibile investire probabilmente anche nei prossimi mesi. Allora, migliori e peggiori in assoluto rapidamente. Yorkville -8,96%, acque potabili -3,96%, Elica di nuovo in calo -3,50%, Monti ascensori, più 23,4%, è il caso di dire che sale facendo ascensori, una battuta che proprio il tecnico mi ha guardato malissimo, avete ragione, fa già freddo abbastanza. TAS più 17, ceramiche Ricchetti più 17, Acotel più 8,45, la Roma Calcio più 7,3%, vedo che siamo tutti un po' distratti, tutti i commenti riguardano la collega Livia Zancanera, non il mercato. Ragazzi, insomma, siete qui per ascoltare la borsa o pensare a qualcos'altro? Dopodiché, complimenti del giro invece di molti ascoltatori per la voce bellissima, altro non aggiungo neanche sotto tortura, comunque sappiate che è sposata, lasciate ogni speranza, voi che ascoltate, grazie Livia Zancanera, il GR e poi torniamo a parlare di temi serissimi, il prezzo della benzina da un lato e il record delle materie prime dall'altro. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso delle materie prime a record in tutta Europa e poi arrivare alla benzina. Il petrolio non è a record, ma la benzina ha avuto aumenti che molti consumatori definiscono ingiustificati. Ieri Codacons, sono detto, costerà 25 milioni in più di euro agli italiani che si muovono per il ponte. E devo dire che oggi su molti giornali questa associazione, che ieri il presidente dei petrolieri De Vita ha detto essere del tutto ingiustificata, tra rincari della benzina e coincidenze con Ferragosto, ponte di Sant'Ambrogio, ponte dell'Immacolata, Natale, noi la notiamo da un po' di anni. Comunque, primo tema della seconda ora, 349-238-6666 per i vostri sms, le materie prime di nuovo a record a partire dall'oro. Nuovo record, $1,427 l'oncia, poi ha ripiegato, poi ha toccato un ennesimo record, $1,428 l'oncia per l'oro, che ha trascinato, se così possiamo dire, con sé tutte le altre materie prime. Il rame, anch'esso ha fatto un record storico, $8,967 a tonnellata, in rialzo anche lo zinco, l'alluminio e l'argento, che con $30,33 l'oncia è ai massimi da 30 anni. Poi arriviamo al petrolio. Comunque vorrei capire che cosa succede e vorrei farlo con chi si occupa tutti i giorni di materie prime, e quindi dottor Roberto Binetti, che è amministratore delegato di Confinvest, struttura leader in Italia negli investimenti in oro, e anche responsabile delle quotazioni di settore pubblicate da tutti i quotidiani a mezzo agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Dottor Binetti, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sul petrolio lasciamolo fuori per un secondo, ma mi spiega come mai tutte le materie prime, a parte da loro, sono tornate a salire con mercati oggi anche positivi, con l'assenza, al di là del caso irlandese e poi di altri paesi europei, di grosse tensioni in questi giorni? Sicuramente la preoccupazione della crisi finanziaria. Lei si ricorda, noi ci siamo sentiti dal 1° di settembre, l'oro era $1,249 l'oncia. Oggi l'oro è a 1427, come ha detto giustamente lei. L'oro è aumentato di ben 3.000 euro al chilo in 3 mesi. Una follia. Ecco, siccome è tanta roba... Moltissimo, veramente, ecco. un importo notevolissimo. Quando io dico trascina con sé anche argento, rame, dico una cavolata, cioè in realtà si muovono su dinamiche diverse? No, sicuramente no. Ripeto, secondo me funziona molto la speculazione, ma anche la preoccupazione che ci sia troppo cartaceo in giro, senza parlare proprio di tecnicismi, statistiche e piattaforme. Noi riteniamo che le materie prime, ma in particolar modo dell'oro, non abbiano alternativa in questo momento come strumento di investimento, come bene rifugio, e sarà così anche per i prossimi anni. Si tenga presente che tutta la massa circolante è superiore a 50 volte il PIL mondiale e si rischia un tracollo del cartaceo. Lo stesso presidente della Federal Reserve lo ha ammesso, paradossalmente si ritorna al baratto e pertanto le materie prime la fanno da padrone. Sì, vedo che sono in rialzo anche i prezzi delle materie prime agricole, mais e soia. Non penso, da quello che so io, che c'è un legame strettissimo con le materie prime di altro genere, però anche qui mi corregga. No, sicuramente non è speculativo quel tipo di aumento, non ha senso parlare di speculazione. Si parla di materie prime solo come elemento speculativo per cercare di salvare il proprio patrimonio. Noi come Confimes, che prima consigliavamo un 20% di investimento su tutto il patrimonio immobiliare posseduto, ora ci spingiamo anche a un 30%. Pertanto è sicuramente una percentuale molto elevata, ma di fatto si può salvare il patrimonio della famiglia, cioè un investimento da buon padre di famiglia, ecco quello che noi riteniamo possa essere. Scusi la domanda forse banale, ma non è sbagliato comprare adesso che l'oro è al record? Cioè, a meno che lei non mi stia dicendo che vi attendete quotazione dell'oro, dell'argento, del rame, dello zinco. Dottor Barisone, è giustissima la sua affermazione, però era altissimo anche il primo di settembre con 1249. Ho capito, però prima o poi calerà questo oro, no? E chi lo dice? No, non so, chiedo. C'è sicuramente una massa circolante senza alcuna concretezza di contenuti, la stessa emissione di 800 miliardi di Obama, insomma, non è che li ha trovati. Ecco, chiariamo perché ce lo chiedono gli ascoltatori il tema. L'oro sale, lei dice, come bene rifugio, ci mancherebbe, però da quello che noi abbiamo capito c'è una massa di liquidità enorme. Lei ricordava l'operazione che in gergo tecnico si chiama di quantitative easing, che in realtà vuol dire semplicemente che l'America sta stampando moneta. Quando la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, annuncia di comprarsi 500 miliardi e passa di dollari di obbligazioni americane, lo fa stampando moneta, quindi immette 500 miliardi di liquidità di circolante di cash sul mercato. Lei dice, se ho ben capito, siccome le borse sono quello che sono, altri investimenti non si vedono, le obbligazioni, figuriamoci in Europa, i timori che vi possono essere, tutto questo flusso di liquidità mondiale si dirige sulle materie prime? Sulle materie prime, in particolar modo sull'oro, sì. Non sull'argento, per esempio, sull'oro fisico, sull'argento fisico in Italia è possibile speculare perché c'è ancora l'IVA, ma senz'altro sull'oro perché è esente IVA. Pertanto senza spese e senza commissioni si può speculare ancora per parecchio tempo. Noi abbiamo sentito analisti americani che vedono l'oro a 1.800-2.000 dollari l'oncia entro un anno. C'è da crederci a questo punto. Sì, ecco, poi vedo anche chi inizia a dire quanto vale un ponte d'oro, ragazzi, non scherziamo. Però insomma, anche perché parliamo di oro puro qui, mi dà quindi delle valutazioni e delle previsioni, soprattutto su oro e argento e rame e zinco. Lo dico a chi scrive, sono delicatissimi come tema perché vengono utilizzati moltissimo dall'industria, per cui l'aumento di questi prezzi poi ha delle ripercussioni anche sui prezzi della produzione industriale. Comunque, dottor Binetti. Io già a suo tempo avevo ipotizzato 1.300 dollari a febbraio, se lei si ricorda, invece siamo arrivati dopo 15 giorni. Ipotizzare adesso un 1.700 dollari, 2.000 dollari non è poi così una follia, vista l'attuale situazione finanziaria mondiale. Ci può stare, noi siamo ancora fiduciosi, ci dispiace ovviamente perché se l'oro aumenta così tanto vuol dire che la situazione economica e finanziaria al mondo non è certo tra le migliori di tutti questi anni, però noi consigliamo ancora investire in oro, almeno un 25-30% è salutare. Insomma. Cioè, che vi dispiace non ci credo neanche se me lo giura, perché è il vostro lavoro, figurati se vi dispiace. No, ma vorrei che cosa potrebbe causare un'inversione di tendenza, cioè un consolidamento dell'andamento dei debiti pubblici americano e europeo? No, secondo noi in questo periodo per diversi anni è assolutamente nulla, è impossibile. Nulla. Ripeto, come dicevo prima, la massa circolante è eccessiva, è esagerata, pertanto come si fa a svuotare questo grosso pallone virtuale vuoto? Cioè, no, anche le operazioni delle banche centrali di fatto non aumentano, mettono nuova liquidità, telefonano in tipografia, ma non mettono riserve auree, non aumentano delle garanzie. Pertanto ho paura che questa situazione ce la porteremo dietro nel tempo per tanti anni ancora. Vabbè, vedremo, lei ha avuto ragione la volta scorsa, glielo riconosciamo, vedremo se avrà ragione anche questa volta. Grazie quindi all'amministratore delegato di Cofinvest, che, se ho ben capito, ce lo chiedete, lei vede un oro a 1.800, 1.700, addirittura 2.000, entro un anno sicuramente sì, a 2.000 dollari all'oncia. 1.700, 1.800 sicuramente sì, entro un anno. Quindi attenzione a chi fa regali, se volete regalare qualche oro, un po' di oro, regalatelo adesso. Secondo quanto ci ha detto il ministro delegato di Cofinvest, Roberto Binetti, grazie ancora. Grazie a voi. serata. E dall'oro alla benzina, la battuta è facile, che sta diventando cara come l'oro, a giudicare dei rialzi alle pompe di benzina di questi giorni, in coincidenza con il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata. Faccio notare che molti ascoltatori ci scrivono di aver comprato in molti casi nelle grandi catene Auchan, ma non solo, gasolio a 1,139 euro, benzina molto più bassa di quella che viene comunicata ufficialmente, quindi c'è un po' di diversificazione sul mercato, però il tema resta tutto, anche perché oggi si è saputo che il Ministero allo Sviluppo Economico sta valutando la possibilità di proporre nel decreto mille proroghe, quello che contiene appunto diversi emendamenti, un bonus fiscale sulla benzina. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il sottosegretario allo sviluppo economico con delega proprio sui temi dell'energia, Stefano Saglia. Buonasera. Buonasera. Le chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, dicevamo, il caro benzina, ieri abbiamo avuto il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana che ci ha detto non è vero che c'è un aumento in coincidenza con i ponti. Noi abbiamo fatto notare che due anni fa il petrolio era a $104 al barile, la benzina però era a 1,449 euro, adesso il petrolio è a $90 al barile ma la benzina è arrivata a 1,455 euro. Il litro, qualcosa non torna, l'Unione Petrolifera ha sempre ragione e noi abbiamo sempre torto, ma noi insistiamo sul tema. E non si fermano nemmeno oggi i rialzi, la Verde diciamo 1,455 euro, l'Enologo in media 1,384 euro, anche il diesel chiaramente sale a 1,321 euro al litro alla Esso, 1,334 euro al litro alla Tamoil, l'Enologo a 1,257 euro al litro. Allora, sottosegretario Saglia, state pensando a un bonus da 20-25 milioni di euro per le pompe di benzina che dovrebbe calmierare i prezzi per noi, siamo sicuri? No. La ringrazio di questa domanda che mi consente di spiegare bene. Un conto è il bonus fiscale, che non è dovuto, diciamo, a coloro che fanno benzina, ma è una misura che è presente dal 1998, che viene rinnovata di anno in anno e che è una deduzione, diciamo, dalle tasse, una deduzione forfettaria per i gestori degli impianti. Quindi questo non c'entra con i rincari dei prezzi o con le possibili misure di mitigazione. È stato, diciamo, sono state messe insieme le due cose, ma sono due cose diverse. Il bonus fiscale è una misura che diciamo uno sconto sul fisco ai gestori delle pompe di benzina. Altra cosa sono gli interventi che è necessario fare sulla rete di distribuzione per riuscire a ridurre il prezzo della benzina, che però riguardano, diciamo, il cosiddetto stacco Europa. Anche in questi giorni abbiamo visto che continuiamo ad avere un 3,5 centesimi circa sulla benzina, 3,3 centesimi sul gasolio, di diciamo prezzo italiano più alto della media europea. Quindi è questa l'anomalia italiana. Quindi, per essere chiarissimi, lei sta dicendo che il bonus fiscale ai gestori delle pompe di benzina, anche se verrà introdotto e passerà nel milleproroghe, non creerà vantaggi, cioè non abbassamenti di prezzo della benzina? No, sul prezzo non avrà effetti, a meno che il fatto di poter ottenere qualche sconto sul fisco consente al gestore di ritoccare i prezzi, ma ne dubito, perché comunque il margine per il gestore sappiamo che è intorno ai 4 centesimi al litro, insomma, quindi diciamo sono due argomenti differenti. Quindi si è creata un po' di confusione, perché noi abbiamo visto questa agenzia oggi a mezzogiorno dire, insomma, il Ministero studia il bonus fiscale in mille proroghe per la benzina, abbiamo subito pensato che questi 20-25 milioni potessero poi direttamente calmierare i prezzi. No, non è così. Sarebbe bello poterlo fare, ma non è così. Devo dire che mi sono andato a riguardare ancora anche il tema delle accise, perché si cerca sempre di trovare qualche soluzione, però Diciamo che anche sul tema delle accise sono molto alte, ma non sono inferiori rispetto a quello che è la media europea. Solo la Spagna ha delle accise inferiori alle nostre. Altra cosa è il tema che evocano alcune associazioni di consumatori, è che in tempi, diciamo, di bilanci meno magri per l'erario pubblico, io stesso sarei favorevole ad introdurre, cioè il fatto che si possa fare la cosiddetta IVA mobile, cioè un'IVA che non cresce in proporzione al prezzo della benzina, in modo da evitare che lo Stato possa avere un qualche interesse nel fatto che cresca il prezzo della benzina. Cioè si stabilisce una quota annuale e in base a quella quota che si stabilisce l'IVA entra, diciamo, su quel livello e non oscilla in base ai prezzi della benzina. Quindi di fatto sarebbe un questo sì farebbe abbassare il prezzo della benzina, anche se lo farebbe aumentare per converso quando diminuisce molto, però di fatto sarebbe più stabile. È un'IVA anticiclica, ossia siccome l'IVA è al 19%, però se il prezzo della benzina pre-IVA va a 1000, poniamo, tu guadagni 190, si dice, siccome lo Stato dovrebbe decidere quanto incassare dalla benzina, una volta incassato quell'ammontare, 5, 10, 20 miliardi, a quel non punto va oltre. Non va oltre, quindi se il prezzo della benzina va a 1000 pre-IVA, tu porti l'IVA al 10% e quindi non va a 1190 ma va a 1100, cioè hai un effetto anticiclico, visto che stai... dubito che con questi chiari di luna il ministro Tremonti rinunci a qualche miliardo in più e ce lo regali con l'IVA anticiclica, che ne pensa? Penso che lei abbia ragione. Perché perché il ministro Tremonti voglia accanirsi sui consumatori, ma queste sono misure che purtroppo si possono fare nei periodi in cui c'è un gettito per lo Stato stabile. Sottosegretario, da noi vuol dire mai, perché col primo debito in Europa, un terzo di tutto il debito europeo e italiano, con i piani di rientro che abbiamo visto, ne parlerà mio figlio forse. Non è così, cioè potremmo sperimentarlo però in periodi di crescita duratura, anche di crescita contenuta, ma di crescita duratura. No, perché io già ricordo, lei non ha nessuna responsabilità, però chi le precedette nel secondo governo Berlusconi, il viceministro Valducci, promise a questi microfoni che sarebbe passata la l'IVA anticiclica, così non è. Vabbè, questo ne prendiamo atto. Poi ci sarebbe anche da esplorare il tema della riforma della distribuzione di carburanti in Italia, perché pensate che da noi ogni singolo distributore eroga mediamente 1.816.000 litri contro 4 milioni in Germania per singolo distributore, 3 milioni e mezzo in Francia e 3 milioni in Spagna e 4 milioni di litri in Gran Bretagna. È chiaro che più piccolo sei, forse più costi hai, no? E più ci devi... Assolutamente così. È assolutamente così. Io purtroppo su questo devo fare mea culpa, nel senso che è più di un anno che ho realizzato insieme ai nostri uffici un testo di riforma che va in quella direzione, cioè va nella direzione di portare alla chiusura i piccoli impianti che non fanno altro, diciamo, che creare una disomogeneità della logistica e quindi un aumento dei costi e di conseguenza incrementare i punti vendita nella grande distribuzione, in ologo e quant'altro. Purtroppo questa riforma è stata a volte, in alcuni casi, osteggiata dall'Unione Petrolifera, poi una volta trovato l'accordo con l'Unione Petrolifera è stata osteggiata dai gestori che hanno convocato uno sciopero e quindi ci siamo fermati. E oggi ho promesso, perché ne ho già parlato con il ministro Romani, che la nostra intenzione è portarlo al Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane per, diciamo, iniziare almeno questo percorso parlamentare, sì, al netto ovviamente della crisi politica che abbiamo di fronte, perché le idee le abbiamo molto chiare, sappiamo cosa dobbiamo fare e è venuto il tempo di portarla a compimento con la prossima parte del Parlamento. Ecco, sottosegretario, in una battuta, abbiamo un minuto, per quello che riguarda Tirrenia, visto che i sindacati hanno confermato oggi lo sciopero del 15 dicembre, i tempi? È un'avvertenza che sta seguendo direttamente il Ministro, devo dire che c'è stato un maggior dialogo rispetto a quello che c'era stato in passato e soprattutto, siccome c'era il dubbio che il governo potesse non diciamo mantenere gli impegni che aveva preso per alcuni ordini su alcune, diciamo, imbarcazioni importanti che dovevano essere da Tirrenia, le risorse perché questi ordini siano completati ci sono state individuate e quindi sicuramente questo è un elemento che porterà, spero, ad un accordo. Speriamo, speriamo, perché è una vicenda che a cui il confronto all'Italia è uno scherzo. Grazie, grazie anche per la disponibilità al sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia. Grazie a voi, buonasera. Allora, siamo in conclusione, a questo punto non mi resta che sapere se Giuseppe Cruciani si occuperà anche di Tafferugli alla Scala, che sono un'abitudine in alcuni anni, non sempre, o de che? Ma no, cose marginali, incidenti alla Scala, dov'è la novità? Una tradizione stantia, vecchia. E parleremo del solito teatrino della politica con il sindaco di Firenze Renzi, molto criticato per la sua visita ad Arcore dal Presidente del Consiglio per chiedere i soldi a Firenze e altre cose ancora. Non aspettavano altro che criticarlo, questo è il mio commento, lo tengo come tale. Grazie Giuseppe Cruciani, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani, siamo in diretta anche domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.